Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette minuti, inizia la prima puntata di Focus Economia della settimana e allora le borse confermano la buona chiusura di venerdì, un elemento molto importante questo, visto che la settimana scorsa invece erano riuscite a metà settimana a bruciare tutti i guadagni. Invece confermano, dicevo, con rialzi non spettacolari ma sicuramente più fisiologici e in qualche modo normali, se mi passate il termine. Parigi più 2,7, Francoforte è la più debole, più 0,90, Londra più 3,9%, Milano in linea con un rialzo dei due indici di 2 punti percentuali. A Piazza Affari va particolarmente bene Atlantia, più 9%, Buzzi Unicem più 7,4%, Telecom più 7%. E poi ancora ST Microelectronics più 5,7, il 5,5 rialzo di Enel, Autogrill più 5,4 e il 5% guadagnano Mediaset, Bulgari, Prismian e anche Lottomatica. Il 4% è il rialzo di Italcementi e dell'Espresso, il 3% è il rialzo delle Generali, di Saipem, di Pirelli e di Fondiaria, ma anche di Alleanza Assicurazioni. Infine il 2,80 lo guadagna Geox, ma anche Tenaris, Fastweb, il 2,5 Unipol e il Monte dei Paschi, il 2,1 Mediolanum ed Eni. Chi è negativo? Fiat torna vicina alla soglia dei 7 euro per azione, perde il 2,3%, Parmalat il 3,6%, Unicredito finito l'effetto libico, ossia l'ingresso dei libici con una quota che è seconda nel gruppo, solo quella della Fondazione Cari Verona. Dicevo, finito l'effetto libico, il titolo è in flessione, perde l'1,6% a 2,28 euro per azione. Negativa di 0,5 punto percentuale, sotto i 3 euro anche Intesa San Paolo a 2,99 euro. Debole sempre rispetto ai mesi scorsi l'euro sul dollaro a 1,3298, quindi anche sotto quota 1,33, ma il petrolio oggi ha aperto in rialzo, anche se sotto, ampiamente sotto gli 80 dollari al barile, a 73,14 dollari, mentre la benzina a casa nostra ha per fortuna conosciuto nuovi ribassi, è scesa anche sotto quota 1,3 euro al litro, ossia l'Agip ha tagliato di 5 centesimi, porta il carburante a quota 1,28 1,289, è il livello più basso dall'aprile del 2007, questo anche per placare alcune polemiche che dicevano insomma i prezzi sono quelli di un anno fa, ma come petrolio, ma non quelli della benzina. Adesso, stando a questi dati, ci siamo sul tema energetico inteso come petrolio. Di energia parleremo in apertura perché resta tutta aperta la trattativa tra alcuni paesi europei, Italia in primo luogo, sugli accordi di Kyoto, sull'adesione, diciamo, dell'Unione Europea alla fase 2 di Kyoto, quindi emissioni nocive. L'Italia giudica il piano europeo troppo costoso per il sistema produttivo, stima costi di quasi 20 miliardi di euro all'anno. L'Europa dice no, i costi sono molto inferiori, non dico la metà ma quasi. E la Germania non si capisce, oggi sembrava che anche la Germania avesse una posizione molto scettica, oggi invece ha detto in realtà anche noi vogliamo chiudere entro dicembre. Assieme all'Italia si è schierata la Polonia e alcuni paesi dell'est. Il tema è capire da un lato quale sia il costo, lì i calcoli divergono perché l'Unione Europea dice voi non tenete conto dei nuovi posti di lavoro e del fatturato che si potrebbe generare dall'applicazione, dall'applicare queste normative da qui al 2020. Però l'Italia ribatte sì, ma sono i posti di lavoro e fatturati ipotetici, mentre i costi sono certi. Ne parliamo in apertura. Altri temi di cui tratteremo, chiaramente l'ingresso di un fondo sovrano dopo insomma quello libico in Unicredito. Oggi il fondo di Abu Dhabi, Mubadala, ha annunciato un accordo di collaborazione industriale con Finmeccanica. Non ha chiesto, nel senso stretto del termine, l'ingresso nell'azionariato del gruppo Finmeccanica, come invece sembrava in mattinata, però insomma c'è un accordo di collaborazione industriale. E sempre Finmeccanica ha però confermato tutti gli obiettivi di target, e quindi utile e dividendo per il 2008-2009. Il titolo oggi ex dunque quota 11,53 più 1,1%, e stacca il dividendo Snam più 1,20% a 4,06 euro per azione. Ultima cifra 349, anzi ultimo numero 349-238-6666 è quello per i vostri SMS. Partiamo con le notizie in breve. Allora, le notizie per quello che riguarda la crisi finanziaria. Abbiamo buone notizie sul tasso Euribor a tre mesi, quello che serve poi per calcolare le rate dei mutui e non solo dei prestiti. È sceso oggi al 5% contro il 5,05% di venerdì. La scorsa settimana lo stesso governatore della Banca d'Italia, Mario Draghi, aveva indicato il 5% come obiettivo da raggiungere, visto il taglio dei tassi di interesse della Banca Centrale Europea. Beh, con qualche ritardo, ma ci siamo. È appunto il 5%, è un livello che inizia a essere già più accettabile e più basso degli ultimi mesi. Sempre per quello che riguarda la crisi innescata dai mutui americani, ma che noi, a mio avviso correttamente, chiamiamo crisi finanziaria tout court, oggi il gruppo ING, quello del conto arancio, è schizzato in borsa. Perché? Perché ha fatto un più 21% ad Amsterdam, e Amsterdam infatti in questo momento guadagna il 5%, la borsa più forte in Europa, dopo che si è saputo che il governo olandese ricapitalizzerà, cioè entrerà nel capitale di ING, che è la più grande banca in Olanda, mettendo dentro 10 miliardi di euro. Ora, se pensiamo che con tutte le difficoltà che ha avuto Unicredit ha ricapitalizzato per 6 miliardi e 6, 10 miliardi la dicono lunga sulle difficoltà non palesate ma esistenti nel gruppo. Il titolo venerdì era crollato del 27% dopo che il management aveva dichiarato di prevedere un terzo trimestre con perdite di 500 milioni e difficoltà sulla capitalizzazione. Oggi schizza di oltre il 20%, visto che il governo olandese si compra, aiuta la ricapitalizzazione di una bella fetta di questa banca. Problema opposto, e vediamo se la soluzione sarà invece identica, per Société Générale, che sta perdendo il 10% a Parigi. Anche qui voci di difficoltà smentite, smentito l'aumento di capitale la settimana scorsa, circolava l'ipotesi di 5 miliardi come sempre come conseguenza delle perdite legate agli investimenti in prodotti strutturati. Société Générale ha smentito, ma il mercato invece crede che vi siano difficoltà, visto che penalizzano un poco il titolo. Ancora per quello che riguarda Merrill Lynch, una delle banche dell'ex stelle del firmamento delle banche d'affari americane, ebbene Merrill Lynch ha detto, ha fatto sapere che l'acquisizione da parte di Bank of America comporterà migliaia di licenziamenti. Chiudiamo con la carrellata sulla crisi spostandoci in Russia, dove lo stesso Vladimir Putin ha negato che vi sia stata una fuga colossale di capitali dalla Russia. In realtà la borsa moscovita sono più i giorni che è rimasta chiusa di quelli che è rimasta aperta. Le voci sono di un pesante indebitamento dei colossi energetici Rosneft, Gazprom, russi, però Putin ha negato le recenti notizie di oltre 30 miliardi di dollari che sarebbero usciti dal paese nei soli mesi di agosto e settembre. Telecom Italia, torniamo sul tema dei fondi sovrani, ci occuperemo nella seconda ora del programma di questo tema. Comunque Telecom Italia è andata molto bene in borsa, e comunque anche adesso guadagna il 7,67%, è il secondo titolo della giornata, come ricordavamo. Perché? Beh, perché il ragionamento che si fa su Unicredit si fa anche su Telecom, cioè anche lì il mercato guarda a Tripoli non come bel suol d'amore, ma come ipotesi di aiuto per un gruppo Telecom che ha una, diciamo, bisogno di aumentare la sua capitalizzazione, visto che il titolo è sceso sotto l'euro per azione e resta a 94 centesimi di euro. I libici, secondo alcuni operatori, potrebbero puntare a questo punto su Telecom dopo essere entrati in Unicredit. E ancora sui fondi sovrani, oggi sentiremo più avanti il presidente della Pirelli, Marco Tronchetti Provera, ha detto in sostanza: l'attivismo dei fondi sovrani libici in generale non deve spaventare e l'arrivo dei capitali esteri è positivo se serve allo sviluppo delle imprese e a superare la crisi. Ancora rapidamente, l'India ha tagliato i tassi di interesse per la prima volta dal 2004, questo come conseguenza anche della crisi, dal 9% di un punto, dal 9% la banca centrale indiana li ha portati all'8%. In Cina si segnala un rallentamento della crescita economica nei primi 9 mesi del 2008, ma adesso quando vi leggerò la percentuale fa ridere, perché la Cina crescerà solo del 10% e non più del 10,4%. Averne di rallentamenti di questo tipo. Dall'America è arrivata una buona notizia sul super indice economico, quello che sintetizza l'andamento dell'economia americana, perché è andato a settembre meglio delle stime, più 0,3%. Il Dow Jones in questo momento guadagna lo 0,80%, ma il Nasdaq è negativo di uno 0,4%. Allora, per quello che riguarda le stime sulla nostra crescita economica, oggi alcuni istituti hanno detto: attenzione, nel 2009, da metà del 2009, dovrebbe andare un po' meglio, nel senso che nel 2009 comunque sia il centro di Confcommercio che Prometeia che Confindustria stimano una recessione, un segno meno. Però Prometeia ha detto che da metà del 2009 inizierà a migliorare la situazione, anche se chiuderemo l'anno prossimo con un meno 0,4%. Anche secondo Confcommercio chiuderemo l'anno prossimo con un meno 0,3%. Per il centro studi di Confindustria, secondo il direttore Luca Paolazzi, ci sono comunque le condizioni per una ripresa significativa dell'economia italiana. Confindustria conferma che quest'anno e l'anno prossimo vi sarà il segno meno, ma valuta con favore in maniera positiva il ribasso delle materie prime, la stabilizzazione del settore immobiliare e la crescita dei paesi emergenti che non si è del tutto arrestata. In effetti il petrolio è tornato su livelli sicuramente più accettabili, anche se ancora alti, a 73, 72, 70 dollari al barile. E allora petrolio, ma adesso energia, vediamo di capire da qua a dicembre quale sarà la battaglia anche a livello europeo per arrivare all'accordo sull'intero pacchetto emissioni nocive, quindi il pacchetto ambientale che dovrebbe obbligare i paesi aderenti a regole molto stringenti da qui al 2020. Di che cosa stiamo parlando? I giornali molto se ne sono occupati in questi giorni. Comunque, continuiamo a ricordare per tutti il tema. Il tema si chiama Kyoto 2, le emissioni nocive, come ridurre i rischi del cambiamento climatico, e quindi il pacchetto ambientale dell'Unione Europea. Pacchetto ambientale Kyoto 2 a cui non hanno aderito, e questo è già un elemento di debolezza, né la Cina, né l'India, né gli Stati Uniti. Vedremo in base al nuovo presidente americano se vi sarà un cambio di rotta su questo. Comunque l'Europa va avanti da sola, decide che entro il 2020 i paesi aderenti debbono ridurre del 20% i consumi di energia elettrica, del 20% le emissioni di CO2 e comunque le emissioni nocive, e aumentare del 20% l'apporto di fonti rinnovabili. Tutto bene quindi? No, non esattamente, perché secondo Bruxelles il pacchetto avrebbe un costo complessivo di 40 miliardi di euro l'anno per i paesi aderenti, che non sono pochi, e per l'Italia sarebbero tra gli 8 e i 10 miliardi, e anche questi non sono pochi, sono quasi una manovra finanziaria in più all'anno. Però il problema è che secondo il governo e anche secondo la Confindustria i calcoli sono sbagliati per difetto. Il governo stima un impatto economico come costi di 18-19 miliardi di euro l'anno, quasi il doppio. E allora sentiamo perché cifre così diverse e comunque i termini di questa discussione che proseguirà da qua a dicembre, quando l'Europa vorrebbe chiudere col pacchetto climatico, e vedremo se vi saranno anche dei punti di sintesi. La scheda. Conciliare un'incisiva azione di difesa dell'ambiente con le esigenze e i vincoli dello sviluppo economico è l'esercizio di equilibrismo in cui si cimenterà l'Unione Europea da qui al prossimo dicembre. Il modello all'esame è il cosiddetto 20 più 20 più 20, ossia la riduzione del 20% delle emissioni di anidride carbonica entro il 2020, il contenimento del 20% dei consumi energetici e l'incremento fino al 20% della quota di energia prodotta da fonti rinnovabili. Se i principi di fondo, difesa dell'ambiente e contrasto dei cambiamenti climatici, trovano il consenso di tutti i Paesi membri, tempi e modalità di applicazione hanno invece disegnato una frattura tra due schieramenti. Da un lato Francia, Inghilterra, Spagna, Portogallo e Germania, oltre a Olanda e Paesi scandinavi, che danno un sostanziale ok al pacchetto e vorrebbero vederlo approvato entro dicembre. Dall'altro Italia, Polonia e paesi dell'Europa dell'Est che chiedono invece maggiore flessibilità nell'applicazione e più tempo per valutare il rapporto costi-benefici delle misure. Anche perché in fatto di costi la differenza di stime tra Roma e Bruxelles non è da poco. Secondo la Commissione UE, il raggiungimento dei tre obiettivi costerebbe al nostro paese tra i 9 e i 12 miliardi di euro l'anno. Secondo il governo, la cifra è invece quasi doppia, è pari all'1,1% del PIL, vale a dire circa 18 miliardi di euro l'anno. La differenza dipende dai guadagni, possibili ma non certi, che potrebbero produrre gli investimenti in tecnologie pulite. Bruxelles li quantifica in circa 8 miliardi e li sottrae dai costi stimati, mentre Roma sceglie di non considerarli nel calcolo. Il timore di fondo dell'Italia è che lo sforzo economico chiesto alle aziende per adeguarsi ai nuovi parametri possa, alla fine, rivelarsi eccessivo, soprattutto per un sistema imprenditoriale che già deve convivere con i costi energetici più alti d'Europa. Per le nostre industrie, il prezzo di un kilowattora è infatti doppio rispetto a quello di paesi come Francia, Danimarca o Grecia e superiore del 40% rispetto alla media dell'Unione Europea. Le ragioni? Scarsa concorrenza, mancate liberalizzazioni, ma anche un mix di fonti energetiche poco favorevole. Nel nostro paese quasi i 4/5 dell'energia arrivano da centrali a gas, carbone o olio combustibile. Nella vicina Francia la stessa quota arriva da centrali nucleari, più competitive sul piano dei costi e delle emissioni nocive. Allora, questa è la nostra scheda. Chi ci chiede, siamo il portavoce di questo, di quello? No, non siamo il portavoce di nessuno. Vorremmo capire, senza ideologismi di varia natura, i limiti e anche i vantaggi di un pacchetto. Fermo restando, come ricordava la nostra scheda, che tutti siamo d'accordo sulla riduzione delle emissioni e che però occorre essere anche realistici, nel senso che occorre a livello internazionale che aderiscono i paesi che più emettono. Si calcola che la riduzione dell'Europa con questo sforzo sarà pari a un ottavo o giù di lì di quanto è l'incremento di emissioni ogni anno della Cina. Per cui attenzione anche così agli idealismi privi di realismo, e però vorremmo capire che tipo di margini si possono intravedere. Già la nostra scheda ricordava come sullo sfondo poi ci sia un sistema delle imprese italiane, qualunque, anche gli artigiani, non pensiamo sempre solo alle grandi imprese, piccole artigiane, che paga l'elettricità, così come noi, ai livelli più alti in Europa, per l'assenza del nucleare, e per cui è difficile anche chiedere al sistema complessivamente dato un costo ulteriore se già paghi un 25-30% più dei tuoi concorrenti europei. Comunque, andiamo per ordine. Il commissario europeo Dimas, quello che ha fatto irritare il governo italiano dicendo che trovava assurda la posizione italiana sui costi, oggi è tornato sul tema e adesso lo ascolteremo. Nel frattempo ci ha raggiunto anche Davide Tabarelli, che è editorialista del Sole 24 Ore, presidente di Nomisma Energia. Buonasera Tabarelli. Buonasera. Sentiamo il commissario europeo Dimas, che cosa ha detto oggi, soprattutto sui tempi dell'accordo. About weather, Italy wants postponement of the. Circa la volontà dell'Italia di rinviare l'accordo sul pacchetto clima, voglio sottolineare che tutti i paesi e tutti i leader hanno ribadito la scorsa settimana la loro determinazione per arrivare ad un accordo sul pacchetto entro l'anno. Have an agreement by the end of the year. Non vedo quindi come sia sorta la questione di un eventuale rinvio. Si dice anche che non ci sia abbastanza tempo fino a dicembre. Credo invece che, al contrario, ci sia tempo sufficiente per decidere se aderire all'accordo. Il tempo è tanto, tanto. Credo che la questione fondamentale sia quella dell'impegno e della determinazione di tutti per raggiungere un accordo e per lottare in modo efficace contro il cambiamento climatico. Siamo sulla strada giusta per raggiungere gli obiettivi di Kyoto. Ci sono alcuni paesi che stanno facendo meglio di altri, alcuni stanno superando gli obiettivi, come Germania e Regno Unito. Altri paesi, invece, sono più indietro nel raggiungimento degli obiettivi. Spero che nel tempo rimasto e grazie alle misure aggiuntive che verranno prese, questi paesi possano raggiungere i loro obiettivi. E oggi però nell'incontro tra i ministri dell'ambiente europei per fare punto proprio sul pacchetto Kyoto, pacchetto emissioni nocive, il ministro dell'ambiente italiano Stefania Prestigiacomo ha confermato in Lussemburgo a margine dei lavori che chiederà ai partner europei una clausola di revisione sulle misure di lotta ai gas ad effetto serra e ha anche aggiunto la Prestigiacomo: finalmente si apre un negoziato in cui noi non siamo soli. Allora, dottor Tabarelli, una nota la devo dare però per essere sempre attenti. Adesso parliamo anche dei costi. Vediamo cosa è successo fino ad ora, perché l'Italia, e qui il problema è assolutamente bipartisan, centro-sinistra, centro-destra, non iniziamo con le polemiche, dal 1990 al 2005, ecco perché dico che è bipartisan, se le emissioni di CO2, di anidride carbonica, si sono ridotte del 18% in Germania, del 2% in Francia, del 15% in Gran Bretagna, cioè se guardiamo la tabella dei paesi europei prevale il segno meno, addirittura vabbè, paesi molto più piccoli come l'Estonia meno 50, l'Ungheria meno 34, ci sono l'Italia che ha avuto un segno più, cioè sono aumentate le emissioni di CO2 e di anidride carbonica del 12% in questi 15 anni, sono aumentate anche in Grecia del 25% e in Spagna del 52%. Vorrei tenere assieme le due cose, tema ambientale ma anche costi. Allora, partiamo dai costi. Abbiamo capito bene? L'Europa dice voi non tenete in considerazione gli eventuali nuovi posti di lavoro, investimenti in tecnologie per l'energia alternativa, fonti rinnovabili, però c'è chi ribatte sì, ma quelli sono ipotetici, mentre i costi che noi vediamo sono certi. Ma sì, sempre il problema di fare dei calcoli quando questi riguardano grandi investimenti, grandi politiche su un arco di tempo lungo oltre 10 anni, che coinvolge un intero paese, un'intera nazione, tanti settori industriali, tanti benefici, tanti effetti, è difficile stabilire il confine fra costi ed investimenti. Questi dovrebbero essere più investimenti, allora bisogna stare attenti a chiamarli costi. Insomma, è una polemica che arriva però un po' tardi, ecco, perché queste politiche, questi obiettivi sono sempre stati sanciti in passato. Nel 97, 11 anni fa in questi giorni, si stava negoziando il Kyoto, gli obiettivi di Kyoto, da dove poi parte il burden sharing dell'Europa, da dove parte poi l'impegno italiano del 6,5% che tanto fa discutere anche in questi giorni. Sì, cioè, bene, facciamo a parlare di investimenti e di costi, ma sempre massima attenzione nel chiarire bene che si tratta di investimenti, che ci possono essere tanti effetti positivi. È vero che però i costi sono immediati, ma gli effetti sono incerti, ecco, tutto vero questo. Si tratta sempre, bisogna chiarire bene le ipotesi di base, ecco. Sì, perché insomma tra i costi che vede l'Europa, 8-10 miliardi di euro l'anno, e i costi che prevede il governo, quasi 20 miliardi, insomma passa di mezzo, come dicevamo prima, quasi una manovra finanziaria. Ma sì, io non ho ancora visto questi calcoli fatti dal governo, da 18-20 miliardi di euro all'anno. Tuttavia si può dire una cosa, innanzitutto queste non possiamo dire se è alto o basso, suona una cifra molto alta. In questo periodo sempre, soprattutto. Sì, bisogna sempre però contestualizzare, innanzitutto bisogna se sono 40 miliardi per l'intera Europa all'anno, che sono 10 anni, sono 4 trilioni di euro, pensiamo a quello che hanno fatto in un attimo i governi europei per salvare qualche banca in affanno, cioè hanno speso 2 trilioni, hanno stanziato, insomma si tratta anche lì di investimenti, qualcosa che dovrebbe sempre tornare. Bisogna sempre relativizzare però alla spesa complessiva energetica, noi allora diciamo 18 miliardi in più all'anno, innanzitutto non partono domani, ci vorrebbero 10 anni per arrivare al regime, e poi bisogna guardare la spesa che è dell'ordine di 200 miliardi di euro all'anno, tutta l'energia, elettricità, gas, carburanti, altri prodotti petroliferi. Sì, però dottor Tabarelli, ho capito benissimo il suo punto, è vero che se guardiamo gli interventi dei governi, attenzione, questi soldi i governi non li hanno ancora spesi, hanno messo a disposizione 500 miliardi in Gran Bretagna, 500 miliardi in Germania, 350 in Francia, cifra imprecisata in Italia, comunque centinaia di miliardi a disposizione delle banche per far reggere l'onda d'urto e non far, diciamo, andare in avvitamento da credito il sistema, non li hanno ancora spesi. Nel caso degli ingressi nel capitale delle banche, attenzione, perché anche qui i governi si comprano delle azioni, per cui anche loro fanno un investimento, però d'accordo con lei che se c'è un'emergenza, abbiamo visto l'Europa muoversi nell'ordine di decine di miliardi di euro, anche se in molti casi ancora virtuali, ipotetici, ci sono solo come garanzia. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Dunque, professor Tabarelli, potrebbe essere, mi passi il termine, uno scambio accettabile per il sistema imprenditoriale, tutto incluso, avere un'energia che costi meno grazie anche, immagino, al nucleare, e da un lato avere però degli obblighi di ottemperanza agli accordi di Kyoto che vuole l'Europa, per cui insomma alla fine il gioco diventi quasi a somma zero? Sì, verrebbe da pensare come il caso tedesco, dove loro si impegnano molto per le rinnovabili, sono al primo posto al mondo per le rinnovabili, sono molto efficienti, sono una Wehrmacht delle rinnovabili per il fotovoltaico, l'eolico, hanno avuto un'esplosione, tra l'altro occorre dire che le loro industrie impiegano decine di migliaia di occupati in queste nuove industrie, che pertanto non sono stati solo dei costi ma sono stati degli investimenti. E tuttavia queste industrie esportano verso l'Italia, che noi perciò andremo, se facciamo tutti questi investimenti, andremo a foraggiare le industrie tedesche. Potrebbe essere una soluzione, sì, i tedeschi usano tantissimo carbone, tantissimo nucleare, hanno ridotto tantissimo le loro emissioni perché hanno chiuso le brutte centrali sporche della Germania dell'Est. E detto questo, potrebbe essere bello se fosse possibile, ma nell'energia i tempi sono lunghissimi e occorre una coesione politica che in Italia non c'è. Beh, da quello che abbiamo capito noi, per una centrale, parlandone con il numero uno dell'Edison Quadrino, ma anche dell'Enel Conti, una centrale 5-7 anni, se c'è l'accordo, se si parte subito, si arriva a farla, no? Ma io non so, sono contento che ci siano delle imprese come Edison e Enel che si danno da fare per investire gli enormi profitti che hanno fatto, i nuovi investimenti, che è la cosa di cui abbiamo più urgenza in questo paese come nel resto del mondo, perché abbiamo bisogno di cose reali oltre la finanza, perciò facciamo investimenti. Detto questo, l'unico impianto che si sta facendo in Europa, che poi è all'interno dei paesi industrializzati, è in Finlandia, è stato deciso da una presa di posizione del Parlamento nel 1998, l'ordine è partito nel 2000, se va tutto bene parte a fine 2011, passano 13 anni in un paese come la Finlandia, in un sito dove esistono già due reattori e con un accordo politico gigantesco, con prezzi che sono già aumentati del 30% e con un contenzioso che è già iniziato fra la francese società che sta costruendo e il proprietario dell'impianto. 13 anni in Italia, pensare che si faccia qualcosa prima mi sembra quantomeno ottimistico. Cioè, se noi fossimo bravi come i finlandesi che fanno questa centrale in un posto dove già ce ne sono due, che hanno un accordo di massima politico, ci metteremo anche noi 11 anni a essere bravissimi, a essere bravissimi con i finlandesi. Sì, ho capito. Non bisogna dimenticare, siamo usciti dal nucleare noi, Sì, no, questo Questa è una vexata questione, cioè, molti ascoltatori scrivono, ma c'è stato un referendum, chi contrario, chi a favore, vabbè. L'ultima domanda che ho per lei però è di carattere forse più ancora complessivo, cioè l'Europa va benissimo, ha dato la sua linea, vuole ridurre del 20% le emissioni, del 20% i consumi, e ben venga, ci mancherebbe, e le fonti rinnovabili. Le chiedo, siccome poi i gas serra non è che guardino i passaporti, non si fermano al confine, se è vero che tutto questo sforzo porterà all'equivalente di un ottavo di quello che è l'incremento di emissioni della sola Cina in un anno, veramente il gioco vale la candela, o non potremmo iniziare un percorso di riduzione, ma non diciamo così, a tappe così serrate, nell'attesa di vedere se anche altri paesi, Stati Uniti, Cina e India, non possono fare lo stesso, perché a quel punto potrebbe fare anche un po' di meno l'Europa se ci fosse una riduzione anche della Cina, degli Stati Uniti? Ma la domanda si risponde ovviamente da sola, perché è ovvio che se noi teniamo fuori da un accordo di Kyoto chi è responsabile del 70-80% delle emissioni e del 90% delle emissioni future è assurdo. Detto questo, bisogna ricordare che questi investimenti servono a due cose sostanziali: a creare della grande tecnologia, come è stato negli ultimi 100 anni in Europa. La Germania è così avanti nelle nuove tecnologie del risparmio energetico, delle rinnovabili, perché ha sempre dovuto fare a meno, un po' come l'Italia, dell'energia. Loro hanno sviluppato nuove tecnologie e noi ne siamo meno bravi. E l'altra grande questione per cui vengono fatte queste politiche è perché comunque siamo, e per fortuna siamo, in una democrazia economica, dove la gente, quello che pensa la gente, conta tantissimo, e se questa gente crede che ci sia un effetto serra, che forse fra l'altro c'è, bisogna agire. E se invece qualcuno crede che non esiste, che sia stupido spendere questi soldi, dobbiamo spiegarlo alla gente, non dire solo che è stupida e che è assurdo spendere questi soldi. No, no, d'accordo con lei. Devo dire che l'aspetto più positivo di questa vicenda mi sembra il fatto che da un investimento del genere nasceranno anche posti di lavoro, fatturato, le tecnologie, e già ci sono molte imprese italiane che lavorano, purtroppo lavorano molto di più con la Germania o con la Francia che con il nostro paese, ma che lavorano esportando tecnologie, ricerca, macchinari, soluzioni, brevetti, proprio in campo di eco-compatibilità o eco-sostenibilità da questo punto di vista. Quello sicuramente è un investimento in ricerca e sviluppo per l'intera Europa. La mia domanda poi è proprio sui tempi, il mio dubbio è sui tempi, se debbano essere per forza così, diciamo, dei paletti così rigidi, o non ci possa essere, un po' come per il deficit, il debito di Maastricht, una tendenza a, per cui tu devi tendere a arrivare a zero, devi tendere a ridurre del 20%, forse sulla data, sulla diluzione nel tempo si potrebbe anche trovare un accordo. Grazie al presidente di Nomisba Energia, Davide Tabarelli. Allora, la borsa adesso. Vedo molti messaggi con proposte, devo dire, anche interessanti, perché alcuni dicono, beh, perché non levare agli imprenditori che assumono questi costi per emettere meno CO2, meno anidride carbonica, perché non dare un vantaggio fiscale, visto che poi comunque i benefici per tutta la collettività quando le imprese emettono meno CO2. Ci sono varie ipotesi possibili per cui la collettività si fa carico, in questo caso non dei danni causati da banche con strumenti, diciamo così, poco capiti per essere bravi e buoni, ma si fa carico di uno sforzo del mondo produttivo di ridurre le emissioni inquinanti, quindi di far vivere meglio tutti noi nella collettività. Ci sono tante ipotesi possibili, importante arrivare poi a un accordo, a mio avviso, che non penalizzi il mondo delle imprese in un momento in cui comunque 2008-2009 saranno due anni molto, molto difficili, e soprattutto se poi questi costi non ce li hanno le imprese cinesi, non le hanno le imprese americane. Torniamo al punto di prima: oltre che respirare noi la loro CO2, ci tiriamo anche la zappa sui piedi in termini di crescita economica. Comunque la borsa, come sempre con Radio Corri sulle 24 ore, buona la giornata oggi, più normale rispetto alle montagne russe delle ultime settimane, più 2,6 in Mibtel, il 2,5 in rialzo dell'S&P MIB, Parigi più 3,5, Francoforte più 1,12, Londra più 4,7, 5,3%, molto bene questa mattina Hong Kong più 5,3% e Tokyo più 3,6%. L'America guadagna adesso 1,5% sul Dow Jones e l'1,8% sullo Standard & Poor's. E allora, Radio Colle, Sole 24 Ore, Eleonora Micheli, buonasera. Buonasera a tutti. Molto bene, Buzzi Unicem più 10%, Atlantia più 8%, Telecom più 7%, Steam Microelectronics più 6%, Bulgari più 5%, Comital Cementi, Enel, Prismian, Lottomatica e Mediaset, Autogrill più 4,80%, Saipem più 3,7%, Comer Express, il 3,3% lo guadagna Generali, Geox, Alleanza e Alleanza, Eni più 3%, Unipol più 2,90%, come Luxottica e Tenaris, il 2,5% rialzo del Monte dei Paschi di Siena e infine il 2% Fondiaria e Banca Popolare, l'1,9% Intesa, l'1,7% Fastweb, l'1,6% Snam Rete Gas. Fronte opposto, Parmalat meno 2,8%, Unicredit meno 2,6%, Fiat meno 1,6%, Terna 1,5% percentuale di calo. E allora i titoli, molto bene, abbiamo visto Telecom Italia. Sì, Telecom Italia sul finale è balzata del 7,6%, ma prima è arrivata a guadagnare quasi il 10%. Gli scambi tuttavia sono inferiori alla media dell'ultimo mese, a dimostrazione che i titoli sono saliti ma senza troppa convinzione. Ad ogni modo, a far salire le azioni di Telecom Italia sono state due ipotesi. La prima è che i libici, dopo l'ingresso in Unicredit, dopo che si dice abbiano acquistato azioni dell'Eni, probabilmente abbiano già acquistato o stiano iniziando ad acquistare le azioni di Telecom Italia. In secondo luogo, inoltre, oggi Marco Fossati, che è azionista dell'azienda, ha rilasciato un'intervista in cui asserisce che la migliore ipotesi per Telecom Italia sarebbe una fusione con Telefonica, e questo ha dato in là ovviamente alla speculazione su eventuali operazioni straordinarie all'orizzonte. Allora, una nota tecnica ad alcuni ascoltatori che nella zona di Milano, Bergamo e anche Roma ci stanno scrivendo. Mi dispiace, c'è forse un problema con il ripetitore, ci stiamo lavorando, do un'informazione di carattere generale, forse c'è qualche problema di segnale in queste aree, a giudicare dai messaggi che mandate. Spero che venga risolto il prima possibile, noi andiamo avanti. Intanto su Telecom tu hai chiarito, l'ipotesi libica viene vista come un'ipotesi anche per Telecom Italia. Che cosa è successo a Unicredit? Perché era partita molto forte, visto che parliamo di ipotesi libica, poi ha perso il 2,6. Anche Fiat ha ceduto l'1,6%. Esatto, per quanto riguarda Unicredit, diciamo che a penalizzare i titoli dell'istituto è stato uno studio di Merrill Lynch, che è uno studio su tutto il comparto bancario europeo, ma in particolare la banca d'affari ritiene che Unicredit, ad esempio sempre in Italia, Intesa San Paolo, avrebbero necessità di un aumento di capitale, e Merrill Lynch in particolare ipotizza che l'aumento di capitale per Unicredit debba essere di 7,4 miliardi, quindi molto più consistente rispetto a quello effettivamente varato dalla banca di Piazza Cordusio di 3 miliardi o 6,6 se si considera anche l'operazione sulle cedole, ed inoltre appunto ritiene che ci sia necessità di un aumento di capitale di 3,7 miliardi anche per Intesa San Paolo, che in effetti sul finale è balzata dell'1,9, però proprio grazie a uno scatto finale fino a pochi minuti dalla chiusura anche le azioni di Intesa San Paolo erano abbastanza deboli. Allora, oltre ai titoli che tu ricordavi, anche Intesa oggi poi alla fine ha recuperato nel finale, era debole, ha viaggiato tutta la seduta quasi in consegno meno, poi ha chiuso con un rialzo del 2%, bene, si diceva, oltre a Buzzi Unicem più 10, Atlantia più 8,30, anche tutti gli altri titoli. Vorrei, Parmalat meno 2,8, da quello che ho capito Eleonora, Bank of America non vuole aprire la trattativa per risarcire il crack, anche perché Bank of America si è appena comprata Merrill Lynch, per cui forse esatto, qualche problema di soldi ce l'ha. Esatto, è proprio ammesso questo, che non abbia altri problemi lei dentro, perché molti dicono che Bank of America dentro possa avere anche qualche problema con le carte di credito. Comunque Eleonora, è proprio quello che hai detto tu, ovviamente, che ha pesato sulle azioni Parmalat, che sono andate in controtendenza meno 2,7, visto che Bank of America ha proprio dichiarato che non intende aprire alcuna trattativa con la nuova Parmalat, per fatti avvenuti invece con la vecchia Parmalat, quindi precedenti al 2003. Vado avanti con le informazioni tecniche a Lucca, a Livorno, a Trieste, anche a Udine non si riceve il segnale. Adesso cerchiamo di, forse c'è qualche problema complessivo. Mi dispiace, chiedo scusa agli ascoltatori a nome di tutta la radio. Andiamo avanti. Io quando leggo che Merrill Lynch dà giudizi sulla Fiat, desse anche giudizi su se stessa, visto che praticamente non esiste, no, ma questi analisti che continuano a guardare quello che fanno gli altri mi fanno impazzire. Siamo praticamente in chiusura. Una battuta su Finmeccanica, visto che sarà il prossimo tema. Eleonora, la reazione all'accordo senza per ora ingresso del capitale di Abu Dhabi, e tra l'altro anche con l'aumento di capitale per l'acquisizione di DRS. Guarda, Finmeccanica aveva reagito molto bene a metà seduta, infatti era uno dei titoli che mostrava i rialzi più vivaci, poi ha frenato e chiuso con un più 0,9%. D'altra parte, infatti, è vero che entrerà il fondo di Abu Dhabi, ma è vero anche che appunto la società sta per ha comunicato l'intenzione di sottoscrivere l'aumento di capitale da 250 milioni, e quindi questo poi ha fatto un po' frenare le azioni. Va bene, grazie Eleonora Michele, Radio Corriere del Sole 24 Ore. Il peggior titolo, società sportiva, comunque insomma la Sogefi meno 7,60, il miglior titolo risanamento. Sto sorridendo perché, visto che abbiamo problemi di ricezione, un ascoltatore ha scritto: a Perugia purtroppo vi si sente. E vabbè, c'è chi ce l'ha troppo e chi ne ha troppo poco. Adesso il GR, poi vi facciamo ascoltare anche cosa ha dichiarato adesso il ministro Prestigiacomo sull'eventuale accordo in temi di ambiente, Finmeccanica e il tema dei fondi sovrani, la Libia dentro Unicredit, forse anche dentro Telecom, comunque l'accordo con Abu Dhabi di Finmeccanica, il tema è caldissimo, le preoccupazioni politiche pure. 18:12, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per la seconda parte di Focus Economia, visto che abbiamo dedicato al tema del pacchetto clima dell'Unione Europea con l'opposizione italiana, polacca, dei paesi dell'est. È appena arrivata la dichiarazione del ministro dell'ambiente Stefania Prestigiacomo dopo il vertice in Lussemburgo dei ministri dell'ambiente. Ascoltiamola perché è netta e direi abbastanza drastica sull'ipotesi di un accordo. La decisione di andare avanti, se c'è l'unanimità, a me sembra una decisione molto saggia che ha assunto il Consiglio europeo. È evidente che l'unanimità significa che tutti devono essere d'accordo, qui nessuno minaccia veti, qui siamo venuti per presentare il punto di vista italiano e per cercare tavoli, per trovare soluzioni condivise. Penso che abbia fatto bene il Consiglio europeo a capire che un impegno così ambizioso, la nuova Maastricht dell'ambiente, quindi vincolante, se non si rispettano gli obiettivi, sanzioni pesantissime, si può accettare se c'è davvero la condivisione di tutti. Quindi nessuna minaccia di veto, è chiaro che se c'è l'unanimità, è passato il principio dell'unanimità, sarebbe in qualche modo suicida non dare retta, non dico a tutte, ma almeno a una parte delle richieste di modifica che un po' da noi, un po' da altri paesi sono state rappresentate. E poi il ministro ha aggiunto: senza modifiche non vi sarà un accordo, perché l'Italia non voterà a favore. Non possiamo continuare a restare su questo tema, faccio solo notare che altri paesi hanno minori industrie manifatturiere, cioè a parte la Germania, l'Italia e anche la Francia, insomma, la Gran Bretagna è un paese che in realtà ha molti servizi. È chiaro che chi produce servizi e non beni emette meno CO2, cioè là dove le fabbriche sono meno presenti i costi sono anche minori. Restiamo invece sul tema finanziario. Alcuni ascoltatori, anzi un ascoltatore dice: voi fate disinformazione, continuate a dire che la colpa di questa crisi è colpa delle banche. No, è colpa di tutti, dei giornalisti che disinformano, degli imprenditori che vogliono solo il profitto, dei politici ignoranti. Abbiate pazienza, tutto si può dire, ma insomma non si capisce perché le banche, le stesse banche che erano così attente nel erogare mutui in Italia, in Francia o in Germania, poi si siano imbarcate con un altro braccio, diciamo, prodotti tossici. Chi doveva valutare questa cosa? Noi? I politici? Gli imprenditori che chiedono un prestito? Ma per favore, la responsabilità è di chi dentro le banche non ha saputo valutare che cosa si stava mettendo in cassa. E faccio notare che negli ultimi 5 anni gli utili e il valore di azione dei titoli bancari è salito in maniera incredibile, proprio perché c'erano anche profitti a questo punto troppo facili da fare con quel tipo di strumenti, o troppo rischiosi. I fondi sovrani e l'ingresso nelle imprese anche italiane in difficoltà di capitalizzazione dopo l'operazione libica e le ipotesi che oggi commentavamo che i libici possano entrare anche in Telecom Italia. Oggi al microfono della nostra Valentina Furlanetto, il presidente della Pirelli Marco Tronchetti Provera. C'è stato un momento in cui sembrava che solo gli strumenti finanziari più sofisticati potessero essere garanti della produzione di ricchezza, che invece era molto più difficile che l'economia tradizionale, che l'impresa tradizionale potesse essere produttrice di ricchezza. Se questo riporta in un domani investimenti verso il sistema produttivo, investimenti dei risparmiatori evidentemente e dei sistemi finanziari, può aiutare un rilancio dell'economia reale. L'Italia ha partecipato meno degli altri paesi a quella che è stata la crescita così tumultuosa dell'ultimo decennio. Questo ha avuto uno svantaggio evidentemente in perdita di velocità, però nel contempo ci siamo trovati ad assumerci meno rischi di altri paesi, quindi potremmo approfittare della situazione attuale facendo le cose giuste per recuperare il terreno perso e reagire più rapidamente di altri paesi. Presidente, lei vede un timore vero e proprio per quanto riguarda i fondi sovrani e la loro possibile entrata in capitali italiani? Io credo che l'Italia ha una serie di grandi aziende che hanno azionariati molto, molto solidi, quindi penso che non ci siano rischi particolari. Mi pare che certi provvedimenti che sono stati così ventilati vadano nella direzione giusta, che è quella del mantenimento delle regole, che però siano anche adeguate a quello che è il contesto internazionale. Così Marco Tronchetti Provera, microfono alla nostra Valentina Furlanetto. Allora, restiamo in tema di fondi sovrani, che già sono quei fondi espressione dei governi, non di singoli privati, che stanno facendo shopping in tutto il mondo, lo fanno nelle grandi banche d'affari americane, si sono comprati pezzi interi di Citigroup, di Merrill Lynch, anche della Svizzera UBS, dove è entrato Singapore, e lo hanno già fatto in Italia, perché seppur con quote più piccole sono presenti sia Singapore che Mubadala, quindi Emirati Arabi Uniti, in varie società, dalla Ferrari alla Piaggio, alla Poltrona Frau, Dubai in AF, Abu Dhabi e anche una piccola quota in media, sette in banca di Roma, la Fico oltre la Libia, quindi è anche nella Fiat e nella Juventus. Però insomma il tema è d'attualità perché mancano soldi nei grandi gruppi europei per via della crisi finanziaria, e invece questi fondi soldi li hanno. Allora commentiamo in primo luogo l'operazione di oggi di Finmeccanica, che non c'entra in senso stretto perché è un accordo con il fondo sovrano di Abu Dhabi, ossia Mubadala, per un accordo di alta tecnologia, assistenza tecnica e formazione specialistica. L'ingresso eventualmente in capitale non è stato chiesto dal fondo di Abu Dhabi, però il presidente di Finmeccanica Guarguaglini ha detto non ce l'ha chiesto, se lo chiederà valuteremo questa possibilità. Sentiamo Guarguaglini sugli obiettivi comunque del gruppo e anche l'operazione di RS, quella che costa 3,4 miliardi, l'acquisizione che costa 3,4 miliardi da parte di Finmeccanica del gruppo americano. Facciamo un aumento di capitali perché ormai siamo sicuri di acquisizione di RS, cioè ormai abbiamo avuto tutti gli ok da parte del governo americano e quindi penso che entro 10 giorni ci sarà il closing con gli azionisti di DRS. Questo porterà per noi un'industria altamente tecnologica presente nel mercato americano, specialmente per quanto riguarda l'esercito americano, e quindi rafforzerà Finmeccanica in quel mercato. L'impatto della crisi mondiale di questo momento, quale sarà su Finmeccanica e quali strumenti avete per contrastarlo? Noi siamo una società finanziariamente solida e questo è molto importante. Io penso anche che questo impatto per quanto riguarda i nostri mercati non sarà così forte, perché credo che i governi per controbattere la crisi normalmente spingono, per quanto riguarda le infrastrutture, quindi non siamo una società che vende commodity o vende su mercati commerciali, vende su mercati normalmente controllati dagli stati, e si sa che in crisi gli stati cercano proprio di spendere di più per mantenere o per cercare di controbattere la crisi. Le previsioni finanziarie sono confermate? però le nostre previsioni restano quelle che abbiamo presentato ai mercati quando abbiamo fatto il roadshow, salvo ulteriori fatti che non vediamo all'orizzonte, le riconfermeremo. Un commento sui rumors dell'ingresso del fondo sovrano di Abu Dhabi. Abu Dhabi, insomma, Mubadala, che io conosco da molto tempo, non ci ha chiesto di entrare. Con Mubadala abbiamo fatto un accordo per quanto riguarda la nostra presenza presso l'industria di Abu Dhabi, dove del resto siamo già presenti perché Serie Sistemi Integrati c'ha una partecipazione, per un trasferimento di tecnologie nel campo aeronautico che noi abbiamo e che quindi siamo ben felici per aumentare la nostra presenza in quel mercato del Medio Oriente che sicuramente è significativo per noi. Invece sull'ingresso di un fondo in Finmeccanica? Beh, come ho detto prima, non ci ha chiesto, se ce lo chiedesse noi esamineremmo l'opportunità. Così Pierfrancesco Corguaglini, numero uno del gruppo Finmeccanica, professor Alberto Quadrio Curzio, preside della Facoltà di Scienze Politiche alla Cattolica di Milano, nonché editorialista del Sole 24 Ore. Buonasera. Buonasera. Allora, la domanda è molto semplice. In periodo di vacche magre, perché i capitali mancano, le banche centrali e i governi devono creare cordoni sanitari per proteggere le banche europee che si sono troppo esposte con prodotti tossici, in cui le imprese rischiano comunque di avere una difficoltà di accesso al credito, le chiedo, si può andare per il sottile e quindi dire no, fondi sovrani no, oppure in realtà bisogna stare attenti che in qualche modo colpiti dalla crisi e dell'emotività non si faccia entrare veramente un elemento di politica estera? Cioè bisogna accettarli questi fondi sovrani oppure sono troppo pericolosi perché di fatto sono i governi a quel punto che entrano? Io credo che si debba valutare caso per caso, tenendo conto che sia il Fondo Monetario Internazionale, che peraltro negli ultimi tempi non è stato brillantissimo, che l'Unione Europea hanno elaborato dei protocolli, uno quello del Fondo è denominato Protocollo di Santiago, anche accettato da vari fondi sovrani, dove si stabiliscono delle regole di condotte, di comportamento per rendere trasparenti questi fondi, perché il problema è che non sempre lo sono stati. Ci sono dei fondi che hanno ormai molti decenni di vita e hanno incominciato a pubblicare solamente nel 2007 indicazioni adeguate sul proprio patrimonio, sulla diversificazione dello stesso. In secondo luogo, l'Unione Europea, e cioè la Commissione che pure ha aderito a questa iniziativa del fondo, ha anche precisato che tutto sommato le legislazioni nazionali, laddove gli investimenti dei fondi sovrani non siano chiaramente commerciali, bene, le legislazioni nazionali possono assumere delle iniziative specifiche. Quindi la cautela è una cautela che fa capo anche a due grandi soggetti, uno europeo e l'altro sovranazionale, e che non è preclusiva in senso assoluto, ma è una cautela, io credo, razionale. Quindi, se ho ben capito, posso un po' prosaicizzare, lei dice bene, se è un ingresso veramente finanziario, cioè mettere i capitali per partecipare agli utili di un gruppo in cui si crede, meno bene, e lì i governi hanno gli strumenti anche a livello europeo, se questo ingresso poi diventa un'azione di politica estera di un paese sovrano. Esatto, sulla base di un investitore che non ha adeguati requisiti di trasparenza, perché ahimè talvolta questi fondi sovrani sono poi i fondi del sovrano, sembra una piccola variante denominativa, ma in realtà è una variante sostanziale. Insomma, un conto è il fondo sovrano norvegese, che chiaramente chiaro. È un conto, e quello di altri paesi, insomma. Un'ultima domanda, perché abbiamo ancora un minuto scarso, mentre vedo che un flash d'agenzia riporta una dichiarazione del presidente americano Bush che ha detto siamo pronti a un nuovo pacchetto di stimoli per l'economia. Alcuni ascoltatori scrivono basta dare la colpa solo alle banche, anche le agenzie di rating. Allora io non è che piace dare la colpa, però insomma, lei che idea si è fatto fino ad ora, perché secondo me siamo più o meno a metà, insomma, di questa crisi, è sbagliato prendersi con i grandi gruppi bancari americani, europei, che non hanno saputo valutare il rischio, cioè c'è una chiamata in corretà di vari altri soggetti, agenzie di rating, oppure insomma le responsabilità è di chi dentro le banche aveva in mano queste divisioni finanziarie e ha incamerato strumenti esplosivi alla fine? Beh, io io credo che la responsabilità sia congiunta delle banche americane, delle grandi compagnie finanziarie e delle agenzie di rating, ma a monte di questo io credo ci siano altri problemi, e cioè due fatti strutturali. Uno, che il risparmio privato negli Stati Uniti è drammaticamente basso e quindi la tendenza a indebitarsi ormai è endemica. Secondo, che la bilancia commerciale degli Stati Uniti, anche in un lungo periodo di dollaro debolissimo, non si è riequilibrata, quindi gli Stati Uniti hanno una esigenza quasi, come dire, ripeto, endemica di indebitarsi inventando tutte le formule più complesse, certo, per dar corso a questo indebitamento. Questo è un bellissimo punto di vista che mi riprometto di approfondire con lei quando sarà passata la parte, diciamo, più turbolenta, ci auguriamo, di questa crisi, perché l'America non riesce a esportare nemmeno col dollaro ai minimi, cioè non esporta più niente, e questo è un problema strutturale produttivo americano. E le dice, quindi gli americani poi sono portati quasi fisiologicamente a trovare formule di ingegneria finanziaria per potersi indebitare, e questo poi però a lungo andare e su scala globale genera la crisi a cui stiamo assistendo e involontariamente a cui stiamo partecipando. Grazie ad Alberto Quadrio Curzio, preside della Facoltà di Scienze Politiche alla Cattolica di Milano, editorialista del Sole 24 Ore. Da Sebastiano Berisoni veramente tutto, vi lascio alla nostra programmazione, ci risentiamo domani dalle 17 in poi.